Capannoni, vecchi stabili industriali, strutture aziendali in disuso. Il Nord-Est, con la sua antica tradizione industriale, in molte delle sue zone mostra dei paesaggi che sembrano abbandonati a se stessi, quasi a testimoniare un tempo che non c'è più. Chiusura di fabbriche e delocalizzazione hanno reso deserti molti esempi di architettura legata alla produzione. Al Festival delle Città Impresa, con un leitmotiv legato al paesaggio della felicità, il tema della riconversione industriale è stato al centro di molte riflessioni. Cosa fare ad esempio dell'enorme struttura della ex fabbrica alta di Schio che produceva lana a metà dell'Ottocento? La tendenza che si sta sviluppando in molti paesi europei è quella di legare la cultura all'economia. Flavio Albanese è architetto e direttore della rivista Domus. Siamo passati da una produzione di oggetti a una produzione di pensieri. Allora io penso che i luoghi che prima producevano forge, avevano rumori e producevano sudore e forze di muscoli oggi devono essere usati per far muovere con grande rapidità le sinapsi. Insomma, questo è un po' il ragionamento. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore, Schio.